Sì. Ho un momento. Cinesi tutti appesi. Un momento epocale. Altri tre mesi, se sì, beccati. Farei proprio un primo piano stretto. Tre mesi ancora. Sì, sì. Ma prova tipo di che? I cinesi. Cinesi tutti appesi. Ma perché non si può dire. Perché perché ha detto? Non mi ho detto il nome di qualcuno. Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ci danno favoriti, ma in quarto di finale credo che una squadra può essere un pochino più favorita dell'altra, però per noi sarà molto difficile arrivare alla semifinale se non giochiamo con la stessa intensità tecnica soprattutto e mentale che abbiamo fatto contro il Dortmund. Io credo che queste due partite siano molto più complicate. Secondo me siamo pronti a fare qualcosa veramente di importante. Poi chiaramente tutte queste parole vanno dimostrate in campo, però credo che ci siano delle emozioni e una grande consapevolezza diversa rispetto anche al passato. Tevez sicuramente è pericolo numero uno, però non dimentichiamoci Morata, gli inserimenti di Vidal, Marchisio. La Juve è una gran bella squadra, bisogna stare concentrati su tutti quanti. Tevez sicuramente è l'uomo più in forma, credo, della Juve. Quest'anno credo che stia facendo la differenza e quindi, ripeto, non sarà facile per noi, ma credo neanche per la Juve. Dobbiamo aspettarci a una partita noiosissima fra la sua squadra e il Monaco? Noiosa no, io spero che sia anche noiosa, ma se alla fine non subiamo gol, che in casa non subire gol è molto importante, l'ho detto anche l'altra volta, qualcuno mi ha accusato che volevo giocare per lo 0-0, però il nostro obiettivo è quello di passare il turno, poi che ci si arrivi con uno 0-0 e un 1-1-1 va bene lo stesso. Io volevo far sentire questa canzone a Pierluigi Pardo. Bonjour, bonjour, comment ça va? Je pense que la situation internationale des Français est très difficile pour la résolution du chômage. Chi canta? Beh, l'indimenticata, grandissima. Beh, non lo so. Tanto si stanno ammazzando dal... Adesso te lo dico. Vediamo se lo sanno gli ascoltatori. Il primo che arriva vince una bambolina. 80024 0024 è anche il vostro numero verde. 349-238-6666. Si stanno ammazzando dal ridere. Daniele Bonamici, il professor Alessandro Marco Tulli in redazione. Sto cercando di comprarlo sul mercato. E Pietro Lacorte in regia. Ah sì, perché c'è De Luca che sta, lo sai dove sta? Sì, in California. Sto facendo questa cosa in California, capito? Di De Luca. Perché lui era in crisi per il Napoli, lui ha detto voglio abbandonare questo continente crudele. Poi appena è partito, Napoli ha vinto 3-0, adesso pensano che porta sfiga lui. Però non diciamo niente. Però comunque, non crediamo a questa cosa. Questa che sentiamo cantare sullo sfondo delle varie generazioni è Sua Maestà Stefanie di Monaco. Ah, grandissima. Beh, è un brano fantastico, un brano riconosciuto, una voce incredibile. Ho sentito proprio 80, c'è quel sentore di paradiso fiscale, capito? Quel senso di, no, nella voce c'è quel senso di pienezza, di felicità dovuta al fisco che non invade. A proposito, hai letto sì. del magnate o ex tale proprietario del Monaco, Ribolo Vlev. Ribolo Vlev. Oligarca del potassio con un passato turbolento, una cosa di omicidio mai chiarita. Ha chiuso i rubinetti. Prima Falcao, Hammer Rodriguez, eccetera, eccetera, adesso tutti venduti. La ragione del suo disimpegno, leggo su Repubblica di oggi, risiede nei dissapori con il principe Alberto, dal quale avrebbe voluto farsi stampare un passaporto monegasco per il quale è ancora in attesa. Ha ripiegato su uno cipriota casomai la giustizia russa facesse il suo corso. Pensava che a Monaco potesse fare buon business, ricostruire lo stadio, richiamare sponsor, cioè capitali esteri di provenienza incerta. Invece ha solo aperto un ristorante, avendo capito che Alberto non avrebbe concesso aiutini. Morale, è in fila, in coda per il passaporto. Mirabilmente il collega Emanuele Gamba scrive mettite lo svantaggio di essere ricchi a Monte Carlo è che sei uno come tanti. Esatto, questo è abbastanza vero. Ci sarà sempre uno più ricco di te in linea di massima. Qui abbiamo degli ascoltatori straordinari, Mimmo da Reggio Emilia, Andrea aveva detto Vanessa Paradiso, ha sbagliato, no, però Raul da Milano ci ha preso, Marco da Ferrara, Ale di Finale, penso Ligure, un altro che non si firma. Insomma, abbiamo veramente degli ascoltatori straordinari. Questa radio secondo me è pronta per una svolta musicale, non so, per del buon rock. Sì, rock. Già, noi ne facciamo, magari non facciamo del rock, ma un sacco di cacciara la facciamo. Ma quello senz'altro. Vabbè, fermiamoci per il traffico, poi parliamo di pallone. 800 24 00 24, parliamo di questa vigilia, di questa vigilia tra Juventus e Monaco, scivolosa, un po' come una buccia di banane. Io fossi in Allegri, l'1-0 lo firmo subito. Nando San Vito per noi. Convocati. Una squadra che nel girone eliminatorio elimina il Benfica allo Zenit, subisce un gol in 6 partite, diciamo che compreso gli ottavi ha subito solamente 4 gol, ne ha fatti 7, ha dei valori e soprattutto in Francia credo che abbia la miglior difesa, ha subito solamente 22 gol. E quindi questo dimostra che questi numeri non sono fatti per caso, ma una squadra molto organizzata, l'allenatore è molto bravo e furbo. Allegri ha imparato a memoria la lezione, caro Pierluigi Pardo. Intanto abbiamo in linea, lo ringrazio, oggi fa l'agente FIFA, ieri faceva giocatore di Lazio, Juve, Roma e Nazionale. Lionello Manfredonio, ciao, buongiorno, grazie. Ciao. Ciao a voi. Senti, come finisce stasera? Fatto che sento malissimo. Come finisce stasera Juve-Monaco? Ma chiaramente la Juve è favorita, però come diceva giustamente Allegri è una squadra organizzata, è una squadra che diciamo si difende molto bene, attacca anche abbastanza compatta, quindi è una squadra difficile da incontrare. Poi è arrivata fino a lì in Champions, vuol dire che ha dei valori. Senti, volevo parlare della Roma dell'Aquila, in cui hai giocato gran parte della tua carriera, anche oltre che della Juventus. Si scatenano paragoni tra questa Lazio e quella del 74 di Maestrelli, non quella di Cragnotti del 2000, che era una cosa diversa, quindi questi paralleli non ci sono. Tu hai giocato le giovanili in quella Lazio dal 71 al 75, poi sei entrato in squadra nel 75, quindi sei stato partecipe di quella squadra. Oggi leggevo Pino Wilson fare questo parallelo anche tra Pioli e Maestrelli. È reale, c'è del vero o c'è molta favola? Tenuto presente che Pioli è stato molto bravo a affrontare un ambiente difficile come quello di Roma, ha valorizzato ampiamente la rosa a disposizione, cosa che magari avevano fatto di meno i tecnici precedenti. Un paragone con quella Lazio, io mi affacciavo in quel momento, sono vinto nel 75, loro hanno vinto lo scudetto nel 74, però erano dei grandissimi giocatori. E secondo me il livello tecnico in questo momento del calcio italiano si è molto abbassato, quindi il valore di quella squadra era nettamente superiore a questa. Chi arriva seconda? Tu conosci bene ovviamente la Lazio, conosci bene anche la Roma, l'ambiente, le pressioni, quanto sia totalizzante tutto, no? In quella città, quanto si viva di calcio veramente 360. Chiaramente è il momento della Lazio e quindi in auge la Lazio, i tifosi della Lazio impazziscono, quelli della Roma non ci stanno, però sa che nel calcio le cose cambiano in continuazione. Io ho visto la Roma a Torino e mi sembra una Roma in ripresa, anche se non ha segnato tantissimo ultimamente. La Lazio è in grande ascesa, però secondo me se la giocano fino alla fine. Tanto hai sentito che nel derbino, Pierluigi, nel derbino il piccolo Close Noah ha fatto doppietta, ha fatto doppietta, una vittoria 8-5 per è il momento dell'Aquila, non c'è niente da fare. Senti, comunque squadra che ha trovato questa anche l'allenatore giusto per, come direbbe Berlusconi, per la stoffa che ha, cioè non uno da voli pindarici alla Zeman, ma un allenatore perfetto per questa squadra, se mi permetti, tedesca, quadrata, equilibrata. Ha valorizzato tantissimi i giocatori che avevano. Anderson è esploso quest'anno, Keita esploderà perché è un giocatore molto forte, però chiunque entra mi sembra che faccia bene. Calanda non giocava non so da quanto e domenica ha fatto due assist vincenti, quindi sono giocatori che l'allenatore li sta facendo, li valorizza alla grande e permette alla società di crescere e all'Udito eventualmente di fare eventuali puntamenti. Il tuo trasferimento ai tempi alla Roma, insomma, diciamo, non passò inosservato, ci furono un po' di polemiche, ma poi alla fine anche invece di riconoscimento per quello che in campo avevi dato. Quanto è difficile? Ci sono differenze nei due ambienti? Dal punto di vista proprio del giocatore? C'è una delle due squadre dove è più facile giocare, dove è più facile ambientarsi? Lo chiediamo a Fredonia perché è nato un gruppo, ti ricordi? Sì, è nato un gruppo. Il gruppo Anti Manfredonia. Vecchia storia. Per un romano giocare a Roma è difficilissimo. Io poi ho giocato sia nella Roma sia nella Lazio. La maglia che indossi diventa molto molto pesante, di avere una grande personalità, devi infischiarti insomma di tutte le polemiche. Io diciamo sono riuscito abbastanza, però è molto molto complicato. Immagino che insomma non sia semplicissimo. La Juve può arrivare in fondo? Adesso è vero che è giusto ragionare un passo alla volta, ovviamente. Insomma, però non manca molto, diciamo, non manca neanche poco, ma non manca molto. La distanza è quasi colmata con le grandissime. La Juve può arrivare a giocarsi, diciamo, le semifinali sicuramente. Poi chiaramente lì affronterà degli squadronissimi, diciamo, tra virgolette. Calcio italiano è un po' indietro del resto dell'Europa e quindi ci vorrà una grandissima Juve per arrivare fino alla fine. Lionello, ti saluto con questo messaggio. Ieri Giordano, che è stato nostro ospite, oggi Manfredonia, tornano agli Aquiloti di un tempo, la maglia celebrativa, li indossarono anche loro, non solo Orsi e Cupini. Ti piace quella maglia? L'hai messa quella maglietta? Sì, quella maglietta sì, l'ho messa. Grandissima maglia, grandissimo stemma, era bellissima quella maglia in quel periodo. Infatti sold out, la vogliono tutti, ce n'è anche Marco Tullio. Sold out, devo dire che è stato un atto, diciamo, intelligente, bello, scaltro, bello, anche bello, da parte bello, di Lotito, che secondo me ha contribuito a fargli recuperare un po' di consenso. Poi ovviamente la cosa fondamentale sono i risultati, è chiaro che una squadra che vince si porta dietro un entusiasmo, però insomma io ero fra l'altro presente la sera di Lazio Milan, che fu una serata trionfale anche dal punto di vista del risultato per la Lazio, e devo dire che fu, insomma, c'era proprio la commozione di un pezzo del popolo laziale per quella maglia lì, quindi insomma subito si ebbe la sensazione che quella maglia, non ti dico che avrebbe portato fortuna, ma avrebbe contribuito sicuramente a ricompattare l'ambiente e forse anche ad attirare qualche simpatia in più e qualche antipatia in meno a Lotito, che sappiamo che spesso, insomma, da una parte del pubblico non è stato proprio troppo amato. Grazie Lionello. Ciao. Complimenti per la trasmissione, molto molto spesso. Grazie. Ciao. Quando vuoi chiamaci. Noi siamo per l'intervento libero. Ogni tanto c'ho lo zio Bergo, mi manda dei messaggi. Quando dite qualcosa di sbagliato vi chiamo. Certo, soprattutto. Grazie. Succede spesso. Ciao. Ma tu lo sai che Marco Tulli davvero ha la maglietta della Lazio. Certo. Voleva stasera 74. Ma sai che a Roma non si trova un 7? Perché sono tutti Felipe Anderson. Ah no, pensavo a Lulic, al numero 71. No. Sai che c'è una numerologia in questo momento. Il 7 di Felipe Anderson. Non si trova un 7. Abbastanza. Non si trova un 7. E allora lo dito, insomma, che è attento al marketing. Facciamo sti 7. Stampa sti 7, no? Poi te lo faccio risentire. Ma cinesi tutti appesi, come la vedi? Manteniamo la calma. Chiamate, Pierpaolo Rimini, Alessio, provincia di Lucca, certo. Pierpaolo, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini, grazie per la convocazione. Senta, la domanda è questa. Fa anche rima, stadio a vedere la partita di stasera. Sì. E abbiamo visto le ultime che Allegri ha deciso di schierare Pirlo, che sembra in buone condizioni. Volevo chiedere a lei, a Pardo, cosa ne pensavate? Questo è un tema interessante. Se Pirlo sta bene è sempre una... qualcosa in più, insomma, 40 giorni fuori, è quasi banale dirlo. Mi sembra che la Juve abbia dimostrato, anche senza Pirlo, in certe circostanze di poter far molto bene, cambiando un po' l'atteggiamento, diventando più muscolare, più dinamica nel mezzo, perché Pirlo è un giocatore straordinario, ma si sa, è più veloce di pensiero, è nettamente più veloce di pensiero che di gambe. E quindi, insomma, penso soprattutto a Dortmund, alla trasferta, insomma, la Juve ha dimostrato anche senza di lui di poter far bene. Però, insomma, non so se fosse più corretta forse una formazione più muscolare, che difesa 4, quindi Barzagli va in panchina, gioca Pirlo, magari oggi con Pirlo rientrante dopo 40 giorni, una sì, squadra più veloce. Sono tutte le votazioni che si fanno da fuori, poi magari Pirlo ti fa una magia che ti può fare in qualsiasi momento. È successo per esempio anche contro l'Olympiacos in questo percorso europeo, è successo tante volte in carriera e saresti smentito. È chiaro che, insomma, la prudenza poteva anche consigliare una scelta di tipo diverso. Poi bisogna vedere, perché queste sono partite anche che vivono del gioco della pretattica, per cui attenzione, aspettiamo le 19:50 quando arriveranno le formazioni. Perché secondo te possono esserci ancora... Secondo me ci possono essere, poi insomma mi fido ovviamente di quello che trapela da parte dei colleghi che stanno seguendo la Juve, quindi non penso che ci siano motivi clamorosi perché siano ingannati da Allegri o dallo staff di Allegri, quindi penso che si vada verso questa direzione. Però attenzione anche ai ripensamenti, sono due scelte, sono due soluzioni possibili. Quando un giocatore torna da un infortunio, comunque quando non ha ancora completamente il ritmo partita, ci possono essere anche delle sensazioni all'ultima ora che ti possono convincere a schierarlo o a non schierarlo, per cui insomma non lo darei al 100%, non ci metterei la mano sul fuoco. Con Pirlo in campo è Sava Sandir, oggi siamo tutti francesi, nel senso che oggi parliamo un po' francese, per carità. E Sava Sandir, mi sembra che insomma con Pirlo in campo la Juve ovviamente ci guadagna, con Pirlo che sta bene ci guadagna, insomma. Io non firmerei 1-0, io penso che la Juve stasera no, ma insomma Allegri ha parlato di, e secondo me ha ragione, di grande pazienza. Ma sì, grande pazienza per vincere pazientemente 2-0 o 3-0. Ti piace? Beh sì, ma perché no, dai. Alessio, provincia di Lucca, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti Carlo Gente per la trasmissione, complimenti a Pardo per tutto quello che fa la Radio Prova. Nella vita, sì. Fisico, anche fisico, sì. Modello di vita. Mi farei sposare mia figlia, ma è impegnata. Per quanto riguarda la partita di stasera, penso Juve sia strafavorita, perché il livello francese del campionato, io quando vedo le immagini, sinceramente, calma, le volte mi sembra di vedere la Lega Pro, ecco, più o meno, Marsiglia Paris Saint Germain è stata una partita non banale, per ricordarne una. Secondo me la Juve è la capolista indiscussa del campionato in Italia, almeno fino adesso. Poi vediamo, aspettiamo sabato per vedere se qualcosa si incrina, ma difficilmente la Juve potrà avere dei problemi. Sta dominando ormai da 4 stagioni e il Monaco non sta dominando in Francia. Cioè la squadra dominatrice in Francia, anche se poi ha buttato via tanti punti in campionato, è partita lenta, è il Paris Saint-Germain. Per cui Juve-Paris Saint-Germain è una partita che potrebbe proporre la prima d'Italia contro la prima di Francia. Qui è la prima d'Italia contro la terza di Francia o la quarta di Francia. Anche se sicuramente il Monaco in campionato ha pagato una brutta partenza, è cresciuto, è una squadra abbastanza solida, sottolineava giustamente Allegri la difesa. Secondo me ci vogliono tutte le cautele, tutte le pazienze del caso, però credo che la Juve sia più forte. Sì, ma che sia più forte sì, Pier. Comunque questa è una squadra che, se la valuti nel rendimento europeo, ha preso un gol nel girone, nella fase da gironi, certo. E è andata a dare tre fischi all'Arsenal secondo in Inghilterra. Assolutamente. Borsa. Ma no, questi gufi, visto che noi abbiamo l'Aquila, noi combattiamo i gufi, lo sai come funziona. Tutti convocati. Tutto sia possibile, ripeto, il vantaggio che abbiamo noi è che la pressione l'avrà quasi tutta la Juve, però noi, ripeto, domani giochiamo un quarto di finale meritato, ultra meritato, e credo che avremo le nostre possibilità con i nostri giovani che tu hai detto che li reputo molto forti. Questo era Raggino, Raggino. Lo zio Bergomi mi ha scritto ciao Pier, allora lo saluto, se ci sta ascoltando lo saluto via Etere. Via Etere, ciao zio, ciao. Ti ricordi come faceva la canzone di Stefania all'inizio? Beh, Wagan. Wagan. Wagan, che è... Come un uragan. come noi, no? Poi non la so tutta, è possibile. Però magari la sa allora Bonnet, magari la sa. Ah, allora Bonnet, buongiorno, come buongiorno. Dove sei? Dove Manu, sei? Manu, vedi che la sa. Bonnet, però non ci fa così, voglio dire. Perché? No, ma sì, perché siamo sensibili. Io sono sensibile. Sarò mi canta in francese alle 14.37 subito dopo pranzo. Oggi ho mangiato poi un prosciuttino che sto mezza dieta, quindi ho anche proprio bisogno d'affetto. Tu mi canti come un uragano in com'è? Come un com? Come un uragano. Ecco, anche ma poi non me lo ricordo. Sì, però. No, questo sarà capito, sarà capito abbastanza chiaramente che sarà il testo. Vogliamo sentire altri brani francesi? Abbiamo qualcosa da dietro? Così adesso, il problema è che in Monaco non cantano, quindi. Ah, perché non cantano? C'è un divieto? È perché non c'è pubblico. Ah, giusto. Dimenticavo. Vanno in pochini a vedere. No, cantano dalle barche, capito? Cantano dalle. Sentiamo il brano che ci propongono dalla regia. Cos'è questo? Abbastanza moderno, cos'è questo brano? Bellissimo, fra l'altro. Sì, è piacevole, è recente, cioè, non è come sì, nuovo. Ma non sai il titolo, perché io ti chiedo qual è il brano che dici è piacevole. Sì, è piacevole, è recente, è orecchiabile. Non lo so. Non lo sai, di chi è il brano? Non lo so. Stromae. Stromae, ma non è francese Stromae? Belga. Non è francese belga. E sai che noi francesi facciamo barzellette sui belgi, e pure su Stromae, è vero, fare le barzellette sui belgi? E ride, conferma. Sono un po' come i carabinieri, non me ne vogliono i carabinieri che fanno un lavoro importantissimo, e i belgi che sono persone carine, mediamente. Senti, allora, ma serve un uragan per passare questo turno per la Juventus? No, è più per il Monaco che serve un uragan. No, la pressione è, cioè, i favoriti sono i ragazzi italiani della Juventus, non i francesi, i giovani che hanno già fatto un miracolo contro l'Arsenal. Ma volendo cercare, insomma, delle cose da guardare, insomma, per essere attenti, insomma, le aree di forza di questa squadra. Ieri Allegri parlava della difesa, mi sembra siano in crescita, sicuramente sono in crescita dopo un inizio difficile nel campionato francese, no? C'è una tendenza netta al miglioramento. Sì, sono migliorati tanti, anche perché con il cambio di allenatore all'inizio è stato difficile. La difesa l'abbiamo visto in tutta la Champions, hanno una difesa solida. Beh, bisogna guardare Carrasco e Dirac, che sono due ragazzi molto rapidi, veloci. E poi Motinho fino a quest'anno non ha fatto nulla. Uh-huh. E da direi dicembre si sta svegliando. Motinho e Dirac. Ascolta, certo. Ma tu cosa sai di... Sembri francese allora, guarda, incredibile. Un accento bellissimo. Cosa sai di Ribolovlev? Poco, anche perché non si vede poco, cioè, si vede poco a Monte Carlo, si vede poco allo stadio. Sappiamo che il progetto del Monaco è cambiato dal tutto dall'inizio della stagione. Hanno venduto i giocatori prima di comprarlo. Sì, hanno venduto Falcao, adesso si stanno appoggiando sui giovani del club, perché in tanti sono formati al club, quindi di quello che sappiamo ha meno soldi di prima. Oppure ne vuole spendere di meno, non gli stampano il passaporto monegasco, perché Alberto gli ha detto: ma tu chi sei? Ma chi sei? Senti, due domande molto semplici. Il Paris Saint Germain riuscirà a eliminare il Barcellona? Prima domanda. E seconda, Ibra che fa l'anno prossimo? Allora, il Paris Saint Germain ce la farà. Così. No, io penso il contrario, ma non lo posso dire. E Ibra farà come sempre quello che vuoi. Sì. Ovvero, secondo me non ci rimane il Paris Saint-Germain. Mal di pancia, come si dice mal di pancia in francese? Facile. Mal au ventre. Malovanto. Perché non è, perché vedi la grandezza, ti ricordi l'imitazione di Fiorello della Bruni, no? Sì. Che sottolineava la nostra apparente volgarità, quando è mal di pancia, a Roma mal di ventre, cioè il ventre, capito? Non è che a Parigi ce l'hanno in tanti, però litigano tutti con Blanc, una guerra aperta totale, continua. Ma guarda, io non sono sicura che sia con Blanc. No, con chi? Credo che il potere lo abbia un ex milanista. brasiliano. Leonardo? No. Thiago Silva. Ah, Thiago Silva. Thiago Silva. Thiago Silva. C'ha un mal de ventre per lui? Ah no, lui l'ha mal de ventre. No, lui non ha. Traduco. No, lui non ha mal di pancia. Vai avanti, francese, traduco. Non è difficile. Vai avanti, francese, tranquillamente. Vai. No, je vais pas continuer en français. No, non posso continuare in francese perché sono molto legato alla vostra splendida nazione, in particolar modo agli uomini italiani. Quanto mi manca? Ma dove sei, Bonnet? Dove sei? Dove ti colloca? In questo momento sono a Torino. Perché stasera c'è una partita abbastanza importante per il calcio francese, anche perché vorrei sottolineare che ci sono due squadre francese nei quarti. Questo miracolo, vogliamo sottolineare questo. Ho capito, c'è una squadra italiana sola. Certo, già che abbiamo un'italiana nei quarti, nell'anno in cui stiamo risorgendo in Europa, adesso non è che arriva la Bonnet per tirarci giù, insomma. Scusa, nell'Europa League quante squadre francesi ci sono? Rion, non ce n'è manco una. Dai, no, non scherziamo. No. Però senti, c'è la percezione che possa essere l'anno giusto per il Paris Saint-Germain, al di là, insomma, delle scaramanzie, dell'assenza di Ibra, ovviamente, nell'andata, insomma. No, di Pastore, di Verratti. Piuttosto complicata la partita d'andata, però c'è la sensazione che insomma la partita col Chelsea abbia un po' sparigliato, perché Paris Saint-Germain era la classica squadra, spendeva un sacco di soldi, arrivava al dunque e poi quest'anno dopo la partita contro il Chelsea è diventata una grande d'Europa, ecco, che prima era soltanto una squadra che spendeva soldi. Cioè, la differenza tra il Manchester City e il Paris Saint-Germain è che il Paris Saint-Germain almeno qualcosa in Europa fa, ecco, capito. Però c'è il Barcellona. Senti, ti voglio raccontare, prima di salutarti, una sparata di Cantona, l'avrai letta anche tu, a margine della cerimonia di consegna dei Lauro Sports Awards a Shanghai. Ha detto: per me il miglior giocatore del mondo, ma che Messi, ma che Cristiano Ronaldo, è Javier Pastore. Ho seguito due partite del Paris Saint-Germain solo per vederlo giocare, ha qualcosa di speciale, capace di numeri che riescono sempre a sorprendere, di movimenti fantastici, è il giocatore più fantasioso del mondo, io adoro questo tipo di atleti. Vabbè, ha fatto un po' il figo? Voleva dire una roba strana? Ma toglietegli il vino, dai. Guarda, sinceramente quando vedi giocare Pastore, non sto parlando della squadra del Paris Saint-Germain, solo Pastore. Cioè, a quei momenti in cui ti fai innamorare del calcio, se non sei già innamorato. Sì, da qui a dire che è più forte di Messi, però è tanta roba. No, non esageriamo, però. C'è l'opportunità contro il Barcellona di far vedere se è meglio di Messi. Confronto diretto. Giocatore straordinario, però insomma da qui a fare un paragone con Cantona. Ma Cantona è così. Deve dire la sua. Non si discute a prescindere. Ecco, io fra Cantona e Pastore preferisco Cantona. Ecco, anch'io. Ma secondo me anche Pastore preferisce Cantona. Invece Massimo 3407321 non vado avanti, dice: sono anche io a Torino, ci vediamo. Questo è l'effetto che provoca la Bonnet, sia pure a distanza, anche soltanto col suono della voce. Faccio un ultimo mal di pancia. Un ultimo mal de ventre? A mal de ventre? Ho mal de ventre. Bisou. A me sembrava un volo van. Bisou, buon giorno, buon mattino. Se becchiamo, dai, non volare, grandissima, Bonnet. Cos'è questo brano? Ciao. Ah, sempre Stefani, è un brano bellissimo. Ti entra in testa. Ti senti improvvisamente cambiato con questa canzoncina, ti senti più ricco. Va bene, abbiamo gli ascoltatori? Abbiamo il traffico. Ah, traffico. Fatti due mescette, così almeno batti ad amico. Tutti convocati. Ciao Ilaria, un po' che la palla a Matano, se ne ho messa. Ho voluto unire due forze che sono simili, cinema, calcio, cultura. E questo è il sale della vita, forza Sampdoria. Ne la faccio più. Ciao Micaela. L'aspetto a fine partita. C'hai un bel abitino, eh. Grazie. Se la fa concorrenza ad amico, eh. L'aspetto a fine partita. Bravo. Ci vediamo a fine partita. Molto... Dice che l'aspetta anche dopo la partita. A dove aspetta? Ah, se io sono sposata. No. Balotelli non ha fame, perché quando sto ragazzo lo chiamano all'Inghilterra e gli danno 4 milioni l'anno, non c'ha fame. Però cominciamo a dargli pane e acqua, vedrai come gioca. Cioè, se prendi pane e acqua, non mangi, a Ferrari la metti in garage. Adesso ti do una bianchina. Eh? E se non giochi, vai in bianchina. Cinesi. Eh? Sì. Un momento. Cinesi tutti appesi. Un momento epocale. Altri tre mesi se sì, beccato. Farei proprio un primo piano stretto. Tre mesi. Sì, sì. Ma prova tipo di cinesi. Cinesi tutti appesi. E poi chi è? Un po' di. Perché ha detto? Non mi ho detto il nome di qualcuno. Via. Micaela, come Sampdoria. E quasi uguali, anche perché sono ligure. Ma però è bella, eh? È quasi più bella da amico. È il nostro fiore all'occhiello. No, no, è proprio più bella, guarda. Vince Micaela contro l'amico 1-0. Buonasera. Vabbè, raffica di Ferrero tra Mediaset, Calcagno d'Amico, ieri a Gazzetta TV e Cinesi tutti appesi, incontenibili in questi giorni. In questi giorni, sì, perché all'inizio era un po' così, era quasi triste. No, ma era sempre stato così e insomma ribadisco, poi alla fine mi sembra che i fatti siano dalla sua parte. Ma al di là del fatto che poi nel calcio ci sono stagioni più o meno fortunate e non è da questi piccoli particolari di una stagione che si giudica un presidente, se mi passi il degregorismo, no? Nel senso che poi ci possono qualsiasi grande presidente comunque ha vissuto delle fasi e delle stagioni difficili, non è che si vince sempre nella vita, però mi sembra che la gestione sia una gestione in realtà molto, come dicevo ieri, molto più matura e molto più sobria la gestione di quello che si viene fuori. Quindi lui fuori fa lo show, poi però lì Mihajlovic ha piena autonomia, quando si è voluto togliere uno sfizio, vedi Eto'o ha lottato per averlo, l'ha convinti, li ha fatti discutere, ma poi ha anche trovato un punto di equilibrio, quindi secondo me sta facendo molto bene. Però Mihajlovic va via. C'è chi vuole la Bonne ospite fissa, andare da Padova. Per questo ho detto, Mihajlovic. Non è che ha detto subito la Bonne, una roba subito in francese. No, perché ha cantato come un uragan. Sì, capito, partita. Comunque, Mihajlovic va via. Io avrei un allenatorino da consigliargli. Si chiama Alessi. Perché? Certo. Ischia. Sentiamo. Abbiamo fatto una grande partita e la vittoria non è venuta, abbiamo fatto una grande partita, quindi il pubblico si può lamentare, può avere ragione o torto, però abbiamo fatto una grande partita, non abbiamo perso nessuna occasione, siamo in piena lotta per entrare nei play-out e quindi voglio dire non vedo dove sta il problema. Dopo che abbiamo fatto una partita del genere dove abbiamo preso una traversa, creato minimo 6-7 occasioni da gol, e quindi che cazzo volete? È così, quindi adesso basta. E allora fate le domande e non fate sempre domande del cazzo. Fate le domande che dovete fare. Che domanda vuole lei? Che domanda mi dica un'altra occasione persa, dica cosa, un'altra occasione persa. Ma per cosa? Ma che vuol dire? Ma che vuol dire non si vince la partita dal Savoia? Ma non va bene. 7 punti in 13 partite, salati, in mezzo alla fogna! In mezzo alla fogna, sempre domande del cazzo! Vinta da gente da dietro! Basta! Allenatore dell'Ischia. Mi sembra tranquillo. Carlo, non so se è riuscito a trasferire questa serenità alla squadra, questa fiducia, la serenità, questa che Mitterrand definiva, oggi siamo proprio francesi, Mitterrand, no? C'aveva questo slogan quando faceva il candidato in una delle sue campagne per le presidenziali, era una forza tranquilla, no? Sì. Proprio che riassume questo simbolo, no? Questa distanza fra la forza e la serenità. Ecco, qui proprio non so se è riuscito. C'è un clima disteso, sereno, insomma si gioca col sorriso. Adesso, ragazzi, chi è? Carlo Vicente. Carlo. Buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno, grazie per la convocazione e complimenti vivissimi. Veramente. Il tuo rapporto col baccalà, partiamo da qui, Vicentino, quindi. Guarda, tu sfondi una porta aperta solo baccalà, ma stasera per vedere la partita abbiamo fiorentine, polentina bruttolata sul fuoco, anche pastini misti veneti, quindi con me sfondi una porta aperta veramente. Sì, la sfondo con 115 kg però. Però sto dimagrendo, sto in discesa. Prego. Io sono lì, quindi grandissimo. Siamo vicini. Il club della piotta. Prego, andiamo avanti. Parlando di calcio. Allora, io non so se voi avete visto la partita sabato pomeriggio di Parma Juve. Io sono juventino sfegatato. Però se Allegri ha gestito così una partita, io vi dico, l'ho vista dall'inizio alla fine, l'ha voluta perdere alla, a carta, a tavolino. Oh. Non può essere... Per quale ragione? Cioè, non si gioca a perdere a Parma. Non si gioca a perdere a Parma. Tu da allenatore di qualsiasi categoria, uno come Llorente, in campo, 90 minuti non lo puoi tenere. Non puoi inserire Vitale, che ha 18-19 anni, quando stai rimontando sei sotto 1-0 e metti dentro Vitale per recuperare la partita. Hai dentro Matri, che hai in panchina Matri, che ha fatto una partita fantastica con la Fiorentina, e me lo lasci in panchina. Allora, se stasera la Juve vince e poi sabato iniziamo con la Lazio, ok, complimenti ad Allegri, ritiro tutto, ha fatto bene. Ma se per qualsiasi motivo stasera non va come deve andare, lo cacciamo. E sabato la Lazio si fa lo scherzetto a Torino, ragazzi, la vedo molto molto male. No, allora molto male, molto no. Male no. Detto questo, secondo me in questo discorso che hai fatto alla fine, cioè, scusami, ma la prova del fatto che perché doveva voler perdere la sconfitta col Parma, che chiaramente è una sconfitta al 99% in offensiva, innocua, eccetera eccetera, però un piccolo fastidio, una piccola punturina di zanzara, sai, questa radio della zanzara te la crea, perché tu adesso hai la partita contro la Lazio che arriva a cavallo fra andata e ritorno dei quarti di Champions League, dove insomma, molto banalmente, è meglio se non perdi. Poi, pure se dovessi perdere, c'hai 9 punti di vantaggio, tantissimo. Probabilmente c'è sempre comunque lo scontro di vantaggio, non penso che perderai con più di 3 gol di scarto, però comunque ti sei in qualche modo ricreato un fastidio. Quindi assolutamente io non penso che la Juve volesse figure di pena, a parte come fai a scendere in campo perché? Cioè non c'è una ragione. Magari c'è stata un po' di sottovalutazione, ci può essere stata l'avversario, dovuta anche al fatto che la Juve, lo diceva ieri sera Mughini a Tiki Taka, insomma, la Juve vista a Firenze sembrava veramente una squadra diventata. Ma sai, Piero, cioè, tu hai il Monaco oggi, hai avuto quell'impresa a Firenze 2 giorni prima, ci sta anche che stacchi la, magari in modo non così brutale, ma che stacchi la corrente mentale. E poi dico anche una cosa, che il Parma in questo momento sì, è l'ultima in classifica dal punto di vista della classifica, appunto, ma non lo è dal punto di vista della sostanza, soprattutto poi quando va a giocare contro le grandi squadre, dove c'è proprio un'ulteriore magia, un'ulteriore adrenalina che viene fuori da questa sfida Davide Golia, con tutta la motivazione del caso. Quindi oggi il Parma oggi è una squadra di metà classifica in Italia. La Juve l'ha affrontata male, è arrivato un gran gol, non ha avuto la forza di reagire, direi punto. Sì, finita lì. Ci fermiamo per il GR, c'è Giulio da Madrid in linea, Santa Catania. Bueno, Julio. Spero che vogliano rimanere. Tu che fai? Stai? Vai. Io sono qua, a oltranza. Meraviglioso. A profusione. GR. In mezzo alla fogna, sempre domande del cazzo! Vista la gente da dietro, basta! Arrivo, un attimo! Tutti convocati. Con poco se campa, con niente se muore. Con poco se campa, con niente se muore. C'è un messaggio che volevo leggere, perché però non lo trovo, aspetta. Vabbè, adesso lo cerco. Giulio da Madrid, è sempre da Madrid, vai, che è in linea. Grazie Giulio. Di nulla, sono il solito colcionero da Bari che è venuto a vedere. Ciao, ecco. Sei a Madrid per il derby. Sì. Sei cazzo colcionero da Bari, sei, eh? Di la verità, sei proprio colcionero, sei. Senti, va 6 derby quest'anno, 4 gli ha vinti l'Atletico, 2 pareggi. E adesso? Il grosso problema è che questo è il derby più importante. Quelli precedenti alla fine contano poco o nulla, perché ci è andata una Supercoppa spagnola, poi 2 vittorie in campionato, anche se l'ultima secondo me è poco attendibile, perché il Real aveva mezza difesa fuori uso quando aveva vinto 4-0 e qualche altra assenza. Quindi la partita di Champions poi è sempre più complicata, perché loro hanno recuperato Modric, che un mese fa non c'era, per il Real è fondamentale perché gli dà molto equilibrio e qualità in mezzo al campo, e l'Atletico ha un grandissimo problema perché non ha un terzino sinistro. Quindi non sei ottimista tu, Pierluigi? Io penso che sia un avversario pessimo per il Real Madrid, cioè penso che il Real Madrid per comunque Real Madrid. Sì, credo che insomma sia una bestia negra, come dicono in Spagna, no? Quindi non è facile per il Real, non è facile psicologicamente e tecnicamente, un po' perché l'Atletico chiaramente ha un grandissimo valore, cioè stiamo parlando di una differenza minima fra le due squadre, e un po' perché la rivalità e il gioco mentale e la tradizione che negli ultimi due anni, finale di Champions a parte, si è innescata fra queste due squadre, rende questa partita secondo me particolarmente complicata per il Real. Quindi, poi detto questo, sì, sicuramente il Real qualche possibilità in più ce l'ha, però secondo me è veramente 55-45, non di più. Ti faccio sentire Ancelotti, che invece sembra aver ritrovato grande garra, grande fiducia. Sì. Detto, arriviamo bene a sta partita dopo la flessione che abbiamo avuto nel mese di febbraio. Ho molti infortuni, ora sono tutti recuperati, l'equipo è fresco e chiaramente possiamo utilizzare un ritmo alto per la partita, che credo giocare con intensità sarà importante. Ma come ho detto, in questo tipo di partite la personalità e il coraggio sono le armi più importanti, e di questa squadra di personalità e di coraggio ne ha da vendere. Guarda, in questo io ho avuto la fortuna insomma, di avere anche delle, diciamo, conversazioni, delle scene private con Ancelotti, nelle quali questo concetto emergeva con chiarezza, cioè secondo lui esistono partite speciali per giocatori speciali, esistono giocatori che vanno benissimo per la quotidianità del campionato, per la normalità, per la consuetudine, per la costanza di rendimento, però quando alzi l'asticella sia dal punto di vista della forza degli avversari che dal punto di vista della posta in palio, dell'adrenalina, quindi della pressione, insomma, capacità c'è di bisogno di altro, capacità di alzare il livello e di assolutamente di ad esempio rendere... il suo Milan, quello che ha vinto la Coppa ad Atene, era una squadra di quel tipo, era una squadra non brillante in campionato, non continua, che però riuscì a trovare 3-4 partite pazzesche e poi arrivò a Dama grazie appunto alla qualità di giocatori che sono speciali. Quindi penso la cosa strana che gli americani chiamano intangibles. Esatto, intangibles. Intangibles. Che in francese si dice mal de ventre. No, c'era questo messaggio che volevo leggere di Max, che ci dice: forse il calcio del giorno d'oggi è quello di Ferrero e dei giornalisti che hanno voglia di fare gossip. Fate voi, ma io penso che quest'andazzo inizi a rompere un po' le scatole. Traduco in maniera un po' sobria. Mobria fa ride, morbida. Non è chiedere troppo, cercare di recuperare un po' di sano sport. Basta elogiare i personaggi che devasteranno nel tempo questo magnifico sport. Non so se Ferrero devasterà nel tempo questo magnifico sport. Francamente, non ho le prove. È vero che, insomma, sicuramente alcuni comportamenti sono sopra le righe, che certe volte è esuberante, certe volte fa delle gaffe. Però, insomma, francamente. Non... Risulta che quelli che hanno devastato qualcosa al momento stiano dalle parti di Parma o qualcun altro che ci sia una difficoltà in assoluto del nostro mondo, del mondo della stampa, dei giornali, delle televisioni, di riuscire a denunciare in anticipo i possibili problemi che accadranno. Questo è evidente, sia quando ci sono stati gli scandali delle scommesse, degli arbitri o i dissesti finanziari, si fa molta fatica, ma si fa molta fatica un po' perché certe queste cose sono notoriamente segrete e un po' perché insomma ci vogliono anche le prove prima di poter dire pubblicamente a mezzo stampa qualcosa. Un conto è andare in un bar, con tutto rispetto insomma, e dire per me quello lì è un ladrone, è un conto è scriverlo su un giornale o parlarne in radio senza avere un minimo di prove, e io credo che questo sia abbastanza normale. Non è soltanto la voglia di non pestare, ecco, ma è anche proprio il senso di responsabilità. Diverso è, poi ci può essere più attenzione al giornalismo d'inchiesta, posso essere d'accordo con te, però francamente non lo so, vediamo che succede, insomma. Cioè, mi auguro che ci siano sempre meno personaggi che facciano questo. Quanto poi invece, se il discorso è legato al sorriso che Ferrero ti strappa, non sono perfettamente d'accordo, no, ecco, sì, fa parte della vita e del gioco, insomma. Io ti presento il mio amico Roberto Ungaro, direttore di Riders. Benissimo. Ciao Roberto. Ciao, un saluto a tutti. Intanto i sorrisi ce li hanno strappati Valentino Rossi e Dovizioso domenica, anche se davanti, come nella Formula 1, c'è un cannibale assoluto che si è ripreso lo scettro in maniera abbastanza inequivocabile, si chiama Marquez. L'aveva fatto capire già il sabato, quando è corso al box negli ultimi tre minuti, ha preso la moto e ha stampato lì la pole position. Lui su quella pista è imbattibile. Honda ha reagito, perché dopo il Qatar hanno alzato il livello del regime, quindi è andato più regime al motore, possibilità di scaricare di più potenza, e sono certi di poterlo fare perché ovviamente sono convinti della loro affidabilità, e Marquez ha dimostrato quello che sa fare. Però dietro, dai, il Made in Italy c'è stato, molto bella la battaglia, e Dovizioso, scottato dal Qatar, questa volta ha detto no, questa volta Vale non lo deve fare, e ha perfino rischiato vedere quella mossa, quella staccata. È vero che non sono ancora postissimi in Ducati, è l'unico aspetto dove devono migliorare, e vedere quel rischio da parte di Dovi vuol dire veramente che si era chiusa la vena in Qatar, perché aveva digerito quel boccone amaro, l'aveva annusata la vittoria e gliel'ha portata così via così Valentino. Questa volta non l'ha voluto cedere. Bravo Vale, perché avete visto la gomma, era finita davanti, quindi ha portato a casa un podio che vale oro ai fini del risultato del campionato. Quella pista è indigesta per Yamaha, ma soprattutto anche per Valentino. Quindi devo dire che lo spettacolo c'è, è confermato il Made in Italy, Ducati fortissima, avete visto cosa fa nei rettilinei. Anzi, mi è sembrato strano che Valentino non ha ancora fatto alcuna battuta sulle prestazioni di Ducati, perché è nettamente superiore. Infatti lui ha giocato tutti i jolly che aveva, in staccata, in curva, era l'unico momento in cui Valentino poteva cercare di strappare il risultato a Dovizioso. E lui, poi Dovizioso con la rossa, avete visto il rettilino cosa faccio? No, va via tutti, va via anche alle Honda. Al di là della pista, pensi ci sia battaglia? Rossi ha detto, io sto lì, caro Marquez, io sarò lì fino alla fine. Dichiarazione di intenti? Sì, l'ha confessato Marquez, che il suo rivale numero uno quest'anno è Valentino. Attenzione, Lorenzo, due gare passi falsi, perché qua non era a posto con la condizione fisica. Secondo me Lorenzo si risveglierà da qui a poco, a breve, però il campionato è presto per dirlo, ma ormai è andato. Ma secondo te il rivale è Valentino, perché Valentino fa paura a prescindere ovviamente dal punto di vista di Marquez, perché è un genio di questo sport, o perché oggettivamente per il rapporto pilota-moto è l'avversario più attrezzato? A 360 gradi, perché sa cosa si deve fare quando sei lì per vincere, emotivamente riesce a gestire quel momento, e per lo suo stato di forma, per l'esperienza, per la cattiveria che sa mettere, per il non rischiare, per tutti quei componenti che solo un grande campione, solo una persona unica ha, e in questo momento Valentino ce l'ha. Dani Pedrosa potrà rientrare a fare degli acuti, ma ormai è andata. E Dovizioso, ok, la moto c'è, però non è abituato a vincere, quindi Dovizioso bisogna aspettare che si trovi in quella condizione e vedere come riesce a reagire alla pressione psicologica. Valentino è di casa lì con quello che ha fatto, e quindi calcolando i passi in avanti che ha fatto la Yamaha, lo stile di guida di Valentino, avete visto com'è cambiato, quanto si butta fuori, sì. E è incredibile tutto l'insieme, ripeto, lo stato di forma e poi saper fare la staccata giusta al momento giusto, strategia, intelligenza, la sommatoria di tutte queste cose, oggi Valentino è il candidato numero uno a contrastare la lotta a Marquez. Divertente è stato, gli appassionati lo sanno, ma questa è una cosa solo del web, Stoner, un Twitter piccatissimo suo, perché voleva correre con la moto di Dani Pedrosa, ma Honda ha detto di no, e lui ha dichiarato: peccato, perché libero da pressioni psicologiche mi sarei veramente solo divertito, e tutti gli appassionati aspettano di vedere questo momento, un ritorno di Stoner in pista. La battuta sarebbe stata, doveva Ducati proporgli una terza moto, vedere uno Stoner adesso con una Ducati di questo livello ci sarebbe veramente da ridere, perché si rimescolano le carte, ma questo ovviamente è una provocazione personale. Grazie Roberto. Grazie mille. Come sempre, a te e a tutti. Ciao Roberto. Ungaro, direttore di Riders. Torniamo agli ascoltatori, Pier. Assolutamente sì. Assolutamente. Alfonso Milano, dimmi. Sì, no, we're ready. We're ready to go with Alfonso. Buongiorno. Pronto, buongiorno, Alfonso da Milano. Grazie per la convocazione. Il mio capitano, dopo 35 anni, ritornò almeno in panchina. Sono uno juventino caramantico. Vorrei solo che la Juve non giocasse con quelle maglie orribili che spesso la fanno perdere, per mio conto ovviamente. Quali maglie? E poi, le verdi? Quelle verdi? Le, ma- Le maglie sì, fanno cagare, scusi. Giudizio sfumato, poi, diciamo, sì, dialettico. Sì. Poi le volevo dire una cosa, se per cortesemente può convocare quell'amico di Napoli, tifoso del Dortmund. Che si tifoso del giallo. Dortmund, sì, lo convochiamo, non mi ricordo come si chiama, ma è convocato immediatamente, sì, per dirgli perché, che cosa. È una cosa favolosa, perché... Quello che faceva le il verso della cornacchia? Sì, erano a tavola, vestiti di giallo, mangiavano zafferano, bevevano birra tedesca, sì. Cantavano l'inno tedesco e l'hanno presa. Oggi secondo me voglio rivedere di nuovo, che portano tanta iella. Oggi secondo me di bianco rosso mangiano la bouillabaisse e bevono, non pagano le tasse, però lecitamente la marsigliese, non so se è lo stesso inno. Comunque le voglio dire anche una cosa, no? Quando gioca il Napoli, no? Io juventino, tifo Napoli, non tifo altre cose. Ma c'è una questione solo di costume, che ormai lo so, Alfonso, però c'è, guardi, però c'è libertà di tifo, cioè io sono tendenzialmente favorevole al gufismo, ovviamente preso con la giusta ironia, con il giusto savoir-faire. Questo secondo me è il punto fondamentale, cioè ognuno nel limite ovviamente del rispetto, della non violenza, cioè fa quello che gli pare. Anche perché è una classica cosa sulla quale non è che te la possono imporre, cioè non è che ti dicono tu adesso devi fare per la squadra italiana, devi fare, cioè se comunque il tuo sentimento ti porta a gufare, gufi, e non è che c'è molto da fare. Credo che poi ci sia un piano razionale, che è quello del sentirsi tutti parte di questo paese, sentirsi tutti italiani, quindi una volta che poi uno magari gufa per la squadra che gli sta antipatica, poi alla fine fa una valutazione più razionale ed è contento, e credo che questo sia oggettivo, se il nostro calcio cresce, perché è un vantaggio per tutti. Questo credo che sia i due passaggi, poi nell'adrenalina della partita tu non è che puoi chiedere adesso a uno del Napoli che ha sempre gufato stasera per decreto di non gufare, del Napoli o dell'Inter, fa parte della vita. Detto questo, io credo che in assoluto, razionalmente, che la Juve stia facendo bene, che ci siano ancora due squadre italiane in Europa League in corsa e che possono andare avanti, sia un bene per tutti. Sì, certo, però detto questo, goliardicamente è una cosa che a me non dà alcun fastidio, cioè, no. è semplicemente un modo di, e non è, di e non è ragazzi calcio, molto diverso dall'estero, cioè, ma è chiaro, dai. Non è che all'estero quelli del Real stasera, domani ti faranno per il Barcellona o viceversa, insomma le rivalità esistono e fanno parte della vita, ed è anche vero che in molte situazioni, mi ricorderò sempre una battuta di Diego Abatantuono forse 15 anni fa a Controcampo, che mi è rimasta impressa, c'era un anno che il Milan non era nelle coppe o era uscito subito, però lui scherzando diceva quest'anno sto gufando tutti, non mi sono mai divertito così tanto, perché fa parte della vita, insomma, inevitabilmente, magari la tua squadra non è in Europa in quel momento e ne gufi un'altra, insomma, non è giusto, ma è umano, e francamente non riesco per decreto a impedirlo, sì. Però insomma, se le italiane vanno bene, cosa ci auguriamo. Cosa ha detto di Bocale Capello sui tifosi della Roma? No, in generale sui tifosi ha detto, ha precisato che non riguarda soltanto i tifosi della Roma, che dispiace, aspetta che te la trovo, che dispiace vedere che si è in mano a un gruppo di persone spesso con la fedina penale, aspetta, citiamolo bene altrimenti. Basta con tribunali improvvisati, ma insomma Capello ha espresso mille volte su mille tifoserie questo tipo di concetto, è il suo pensiero, dice che questo molte volte, non dovrebbe essere il punto di non ritorno, dovremmo essere giudicati, perché è comparso questo striscione contro Pallotta, no? Ieri Capello dice basta, idiot is gonna to pay you. Sì, basta con tribunali improvvisati dei tifosi. Lo striscione contro Pallotta, punto di non ritorno, dice Capello. Sì, dovrebbe essere il punto di non ritorno per tutti a partire da questi momenti. L'ho sempre detto, l'ho sempre fatto. Probabilmente ero uno dei pochi che aveva il coraggio di dirlo. Una delle cose più brutte che mi è capitata è stata la contestazione dell'anno che poi la Roma vinse lo scudetto contro l'Atalanta. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, arrivarono gli ultra. Capello dovette andare lì di fronte. Era contrario, accettò di andarci perché il presidente glielo chiese. Rimase a distanza. Questo continua a dire Capello. Che aggiunge bisogna essere giudicati solo per quello che si fa, non davanti a dei tribunali inventati da persone con la fedina penale non puramente pulita. Il limite principale in tutti i posti, tiene a precisare Capello, questa cosa ovviamente non succede solo a Roma, e che è il suo un discorso generale, però insomma è dispiaciuto che queste cose succedano. Successo anche a Bergamo, di recente, ed è una cosa che io sinceramente non sopporto, però noi facciamo, noi l'unica cosa come istituzioni che siamo capaci di fare è chiudere la curva, andando così a punire chi quel giorno magari neanche c'era, oppure chi non gliene frega niente, gliene frega niente, giocatori, insomma, cioè, ecco, quindi cioè. È veramente, questo secondo me è l'ipocrisia massima, è un errore, è una decisione che in punta di diritto secondo me è anche sbagliata, perché per quanto tremendo quello striscione, lo dico senza se senza ma, orribile, moralmente vergognoso. C'è un insieme di cose, però cioè, c'erano anche i cori, sì, c'erano anche insieme, i cori, sì, sì, sì. Quello ha messo insieme i cori, ha messo insieme un'altra storia per cui la Roma e un altro club non hanno presentato all'inizio della stagione, sì, sì, la documentazione che serviva. Poi ci sono stati i famosi cori contro il Vesuvio, quindi c'è anche questo, però io quello che dico è che questo tipo di provvedimento a me racconta l'impotenza. Mi racconta l'impotenza di un paese che invece di riuscire a intervenire sulle mele marce, su chi realmente queste cose le pensa e le ha scritte, va a colpire indiscriminatamente tutti, ci sarà una giornata di squalifica, pagheranno gli innocenti, pagherà anche la squadra che non ha grandi responsabilità su questo, e vabbè, può essere, questo ci può anche stare, responsabilità oggettiva, mi andrebbe bene se servisse a qualcosa, temo che non serva a niente, che non serva a niente. È un provvedimento totalmente vuoto di significato. E questo, scusa, lo ripeto per la 16ª volta, non ha niente a che vedere col giudizio di quegli striscioni che sono moralmente inaccettabili. Marco Sondrio, buongiorno. Buongiorno, grazie della convocazione. Niente, io sono tifoso milanista, volevo riagganciarmi volentieri a quel discorso che poc'anzi ho sentito del simpatico allenatore dell'Ischia. Sì, sì. Niente, lasciamo stare la reazione perché lascia il tempo che trova, però a me ha colpito molto, diciamo, la professionalità dell'intervistatore. E mi chiedo come mai queste cose succedono solo in Serie C, Lega Pro, succede mai magari in ambito più alto, no, ogni riferimento. Succede. Abbiamo visto di recente ogni morte di papa, diciamo. Ma anche, sì, però insomma, non mettersi a litigare in quella maniera non lo trovo particolarmente, sì, interessante. L'obiettivo non deve essere litigare, il problema è se di fronte a un allenatore o a un dirigente che ti intimidisce, ti fa intimidire. Certo. Non è arrivare per forza allo scontro. Io penso allo scontro in linea di massima non serve a niente. Comunque, per dirti, tre giorni fa c'è stata una discussione televisiva fra Boban e Inzaghi, abbastanza, certo. Cioè, secondo me poi ognuno ha il suo stile, il suo modo per farsi tirare fuori le risposte. È anche vero che quando si fa un'intervista, almeno nella mia idea, si deve cercare di mettere a proprio agio l'ospite, certo. Perché quello che ti interessa è sentire il punto di vista dell'ospite, certo, poi sta al pubblico o agli opinionisti valutare e giudicarlo. Ciao Pier, sentiamo domani. Ce ne andiamo, sì o no? Ciao Pierluigi. Mamoriano o Monfiano? Sono due zone, sono due modi di essere, due categorie dello spirito catanesi. Domani lo scopriamo. Ciao a tutti. Ciao.